Dimmelo, Pietro Gori, dove sei? Sono a Portoferraio a lavorare. Qua siamo nelle mani i dei giudei. Lavoro loro e mi pagan coi rame. Oh, Pietro Gori, sorti dalla tomba, che c'è l'Italia è priva a distruzione. Tu la testa sona alla tua tromba e dai lo squillo alla rivoluzione.